come in antichità, adesso a Copà una volta uno là dal Mas, è andato a tirare fuori un traf per bruciare la legna e è morto. Dopo ne trovavo uno dei picai, appena dentro dalla porta del castello, che era una noghera, adesso no, non la c'è più adesso. E dentro a questo coso qui, diceva che lei è uno da Cagliame, pareva che più sa quello, dopo diceva no, dopo non sono più. Non sono neanche a mio fondo chi che era, chi che non era, comunque dentro va di questa noghera, ciò che se ne è su, e l'ha tirato su, insomma. Ma che era tutto pericolante, che era tutto, i muri che veniva su, andava a togliere la legna, mi da su il castello, a tirare via la edera, sale il raggio che va su, a tirare su, mia mamma veniva su, e invece mi così, qua dal mas, quando sono la pelle, la tira fuori entravo, a tirare fuori entravo, e che mi usò un sasso e la copa. Come si dice, farlo, perché tu hai dato i cupi per le case da Besnel, no? Era cupi grandi fatti da tua mamma, che gli dopo arriva qui da Besnel da fare il cuore misura, perché era tanto bei grandi, no? Dopo a un certo punto, quando è andato a Zomassa, la Sussa smastiva certi travi, e il conte, e che ha detto insomma, che vuole i cupi, che vuole i cupi, l'ha redato i cupi di mezza casa, e l'ha portato in castello per coprire almeno il putante di quel che... Finché la tenuto l'ora, sempre la tenuto bene, perché lo pascoliva e lo taglieva, sì. Era dentro un muccio di fema, allora era dentro il di fema. Noi insomma manteniva una bestia, anche a 25 slitte di fema, noi infatti ancora il castello. E taglieva le rame in castello perché era in oseveri, che era dentro le piante, tutti gli anni dormita dalle parti della slitta, insomma, ne manteniva una bestia, una vacca e una capra. Dopo venne fuori alla guerra. Ecco. E allora lei era io che amministrava tutto. Eh sì, e la c'è l'amministrazione e il conte Fedrigotti. Suo zio? Ecco, nostro zio. Fratello dei nostri, genitori, mm-hmm. Ecco, e noi lo erano. E lì, gli ha tolto il castello, ora era la porta aperta, ora era serata, veniva dentro e i vandali che è sempre stati, tirava su muri, tirava su travi, tirava su tutto quel che era. Addirittura tirava su i travi, no? Uno, da Pesonella, era stato morto. No, era lassù da insomma dal maso era poi tirato fuori al traf, no? Perché lo demoliva e tirava fuori i travi anche per bruciare per la legna, perché non era mica che era pieno dei locali e travi. Mi no c'è tanto una gnocca di traforsassi e di far pulizia dentro quei castelli, che mi da guarda Gesù del nostro cugino. Era il fiore della nostra prima cugina, sì, che fa custode, che abita lassù, e che ha tre maschi, sì, ecco. E mi aveva invitata ai battesi, alle cresime, alle prime comunioni del Sofio Vei, Adriano, vieni su, vai su, guarda che col popolo che battezzo, col popolo che c'ha la prima comunione, dai, vai su, che fai in festa, ti fai una magnata, e così. Ma non c'è panna gnocca, qui 10 anni che avevamo noi, da tanto, tanta una pulizia che mi fa quasi schifo dire la verità. Sai? Ecco. Anche non strangoso, una volta sono nato dopo che la restaurai, era ancora dentro in fondo che aveva ancora da finire. Dentro le quattro stagioni era.